notte vista da qui sembra bellissima. Stelle che accendono il blu, quanta luce c'è. Echi di un'alleluia che non si spengono mai. Oggi è un giorno speciale, Natale, ed è sempre così. Dimmi perché è Natale ma pace non c'è. Buon Natale, ma il senso qual è? Un saluto formale non è. Come amare? Quanti sogni fanno gli uomini in un giorno vanno via. Buon Natale se vuoi, quello vero che è dentro di noi, dentro di noi. La neve che cade qui mi sembra candida, ma nel silenzio che fa c'è una guerra. In ogni terra metà che nessuno mai salverà. Anche un giorno speciale fa male e tregua non ha. Dimmi perché è Natale ma pace non c'è. Buon Natale, qual è? Una frase formale non è, un pensiero che vale perché c'è un Natale se vuoi, ma può nascere solo da noi, dentro di noi. Stella cometa sarai, stella purissima, se dall'alto dei cieli un bel giorno la pace vedrai.